tardi, lo so, è tardi già. Allora, ho bisogno di te, zampino, gli occhi del panda, la voce da orso, zampino, di corsa però, è tardi, lo so, è tardi già. Tardi già.